a me pare che il G8 stia andando molto bene, intanto su un piano politico, perché questo è un G8 nel quale politicamente stanno accadendo delle cose importanti. Il ritorno della politica sull'economia, mi sembra aver segnato questi primi giorni di discussione, è qualcosa rispetto a cui dall'avvento della globalizzazione ci si interroga, rispetto a cui mi pare che si stia invertendo la tendenza in un modo importante, cioè il ritorno all'economia reale rispetto a una economia virtuale fatta di speculazioni. Insomma, mi sembra un segnale importante, quindi questo rapporto tra economia e etica e poi una serie di risposte che si stanno anche sui temi dell'ambiente, del clima. Mi pare molto concreto come G8, mi pare che alle polemiche, anche insomma un po' strumentali, che sono arrivate, abbiano risposto direttamente gli altri leader, i leader delle altre nazioni, circa l'organizzazione del G8, circa la leadership italiana che viene riconosciuta come una leadership forte, e questo ovviamente ci basta. Ecco, io non di fronte ad alcune polemiche anche insomma della stampa, che noi della stampa, di certa stampa internazionale, perché poi noi facciamo l'errore di dire la stampa internazionale, non tenendo probabilmente in debita considerazione il fatto che nella quasi totalità dei casi questi giornali che ci attaccano sono dei giornali schierati con la sinistra nelle loro nazioni, che chiaramente insomma fanno una propaganda politica che non va confusa con quello che i popoli pensano dell'Italia. Quindi sta nelle cose, la polemica politica, ma credo insomma che la risposta migliore sia arrivata dai leader che con Berlusconi e con il governo italiano stanno lavorando a questo giro.